Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Senti questa poesia, si chiama Le dita del piede. Ma che diavolo succede? Che razza di dita sono queste che non gliene frega più niente di niente? Ma sono ancora le mie dita? Si sono forse scordati i vecchi tempi? Che cosa voleva dire esser vive allora, sempre in prima fila, sempre le prime a scendere sulla pista da ballo appena attaccava la musica? Bella, no? Avete riconosciuto, era Nanni Moretti nella stanza del figlio che leggeva Le dita del piede, una poesia di Raymond Carver. Buongiorno intanto da Nicoletta, io mi auguro che oggi vi siate alzati col piede giusto, che anche le vostre dita dei piedi siano in forma. Lo sappiamo tutti, il lunedì è una giornata difficile, è un attimo mettere il piede in fallo. Io sono sicura però che oggi riprenderemo subito il passo. In linea con noi abbiamo Marco Mazzotta, riflessologo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a tutti. Allora, riusciamo a magari suggerire un massaggio per i piedi, già che anche quelli che si sono alzati male stamattina? Assolutamente sì, innanzitutto prima una bella coccola al piede che possiamo massaggiarci o farci massaggiare il centro del piede, la pianta del piede. Partendo sotto il dito medio, andando tutto il sentiero avanti e indietro, lì rilassiamo l'intestino. Se invece andiamo sul dorso del piede, partiamo dall'alluce, andando dall'alluce, seguendo l'osso che ci porta fino in fondo, fino alla caviglia, andiamo a rilassare bene la nostra colonna vertebrale. Quindi possiamo già farci una bella coccola sia la sera prima di andare a letto che alla mattina per dare un po' di energia alla nostra giornata, perché i nostri piedi sono la nostra energia, la nostra massa a terra. Scarichiamo la nostra energia sui piedi. E poi una cosa che mi raccomando a voi donne, di mettere delle scarpe belle comode, perché sennò arrivate veramente con un lunedì veramente faticoso da partire, è una settimana pesante. Possiamo alternare scarpe col tacco e scarpe senza tacco. Assolutamente. Però io, Nicoletta, al tacco non posso rinunciarci. Lo so che lei è una fanatica del tacco, però vabbè, pagherò. Dopo si deve far coccolare bene il piede. Va bene, troverò chi mi coccola il piede. Grazie a Marco. Grazie. Mazzotta. Voglio salutare subito qui in studio con me il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario della fisiatria. Della fisiatria e della riabilitazione all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Vedi, mi ha fatto pensare ai piedi, ai tacchi, alle coccole. Rimarrà con noi per tutta la puntata. 800 24 00 24. Iniziamo subito, abbiamo detto, con il passo giusto. Io penso che ascoltando questo breve insert ritroverete il passo anche voi. Perché reggono l'intero peso, perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi, perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare, perché portano via, perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato. E chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta. Perché sanno saltare, e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali. Perché sanno piantarsi nel mezzo delle strade come muli e fare una siepe davanti al cancello di una fabbrica. Perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare. Perché per qualche popolo pratico erano unità di misura. Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin. Perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante. Questo è l'elogio del piede di Henry De Luca. Dottor Melegatti, perché, se passassi la parola a lei, che è fisiatra e quindi dei piedi se ne occupa in modo particolare, perché garantiscono proprio il nostro appoggio e raccontano anche molto della nostra postura. Certo, il piede è uno straordinario organo, è un capolavoro di architettura, perché ci permette di camminare, ci permette di correlarci con l'ambiente in cui viviamo. Quindi non è solamente un organo di propulsione, è un organo quindi che ci permette di, come abbiamo detto, correre e camminare, ma anche un organo sensoriale, perché attraverso delle piccole strutture che si chiamano recettori, attraverso il piede noi siamo in grado di, per esempio, valutare le asperità del terreno, siamo in grado di correggere la nostra postura, siamo in grado di affrontare meglio la nostra giornata. Quindi è un organo straordinariamente complesso e proprio per quello dobbiamo trattarlo bene. Sappiamo, dottor Melegatti, che i piedi, in base alla forma, in base alla lunghezza delle loro dita, vengono divise in tre tipologie. Allora, mi piacerebbe che ciascuno di voi riuscisse un po' a riconoscere, a dare così un nome alla forma del proprio piede. Ci facciamo aiutare da questa scheda. Piede egizio. La lunghezza delle dita va a scalare. L'alluce è il dito più lungo. Piede greco. Nel quale il secondo dito supera in lunghezza l'alluce, mentre le altre dita sono più corte. Piede romano. Nel quale le prime dita hanno la medesima lunghezza. Qual è il vostro e qual è la forma anche che vi piace di più? Ma, dottor Melegatti, che cosa le dice la forma dei piedi? In base alla forma ci possono essere delle criticità? Sì, diciamo che esiste una correlazione tra la forma del piede e la possibilità, io dico teorica, sì, di sviluppare qualche problema al piede. Per esempio il piede egizio, che prevede l'alluce lungo, può andare incontro più facilmente di altri all'alluce valgo, per esempio. Certo. Chiaramente, se poi viene aiutato questo piede egizio a una scarpa col tacco alto e con la punta stretta, allora lì la luce valgo veramente si presenta con è quasi prenotato. Sì, è quasi prenotato. Il piede greco, che presenta un alluce più corto, allora può andare incontro alla rigidità dell'alluce, quindi con dolori all'appoggio, problemi metatarsali. Ma più che la forma del piede, credo che sia importante l'appoggio del piede. Ecco, perché ciascuno di noi ha un appoggio diverso, che dipende, è vero, dalla forma del piede, ma anche da altre variabili, ad esempio il peso. Certamente, il peso, la conformazione delle articolazioni che stanno sopra le articolazioni del piede, per esempio la forma del ginocchio, la forma delle anche, anche la postura può influenzare l'appoggio plantare. Noi abbiamo la possibilità di dividere in due grandi categorie, il piede piatto e il piede cavo. E sono l'uno l'antitesi dell'altro, e entrambe queste situazioni, quando sono esasperate, possono portare dei problemi. Dottor Melegatti, le statistiche dicono che l'80% delle persone, in maggioranza donna, soffre di problemi ai piedi. Lei ha già sottolineato, come ha fatto Marco Mazzotta, il problema delle calzature con il tacco, ma non, cioè, a questo è difficile abbastanza rinunciare. Certo, capisco. Noi in generale siamo portati, quando abbiamo mal di piedi, a pensare che sia colpa della calzatura, ma c'è dell'altro e c'è di più. È importante anche capire in che punto è localizzato il nostro dolore. Allora proviamo un po' a dividere il piede in tre parti, no? La parte, certo, subito sotto le dita, quella centrale e quella del tallone. Il piede sotto le dita è l'avampiede, quindi, sì, che prevede le teste metatarsali e le dita stesse. I problemi a livello dell'avampiede sono problemi in genere d'appoggio, problemi di sovraccarico legati alla forma del piede, per esempio un piede cavo che prevede un appoggio plantare ridotto, con il peso del corpo molto spesso nella parte anteriore e nella parte posteriore del piede, può creare problemi da sovraccarico proprio sotto le teste metatarsali, sotto le dita, e quello ci può creare disturbi durante il cammino, ma anche a riposo, quando la metatarsalgia si trasforma in quella fastidiosa patologia che si chiama neuroma di Morton, vale a dire una pallina di tessuto nervoso che può dare delle stilettate, dei dolori quando curenti. Quando si dice si vedono le stelle. Si vedono le stelle. È proprio così. Problema del retropiede, problema del calcagno. Il problema del calcagno può essere legato a una retrazione della muscolatura posteriore della gamba o della coscia, può essere legato anch'esso alla conformazione del piede. Possiamo avere problemi a livello del calcagno sia per il piede piatto che per il piede cavo. A livello del mesopiede abbiamo un problema legato alla retrazione della fascia plantare, che è quella struttura fibrosa che chiude a ponte la volta longitudinale del piede. Voi, intendo voi medici, raccomandate sempre di fare molta attività sportiva, ma oltre ai piedi delle donne, a lamentarsi sono anche i piedi degli sportivi. 800 24 00 24, cercheremo di capire oggi, con l'aiuto del dottor Melegatti, quando lo sport uccide il nostro piede, gli fa vedere le stelle. Intanto Leonardo dalla provincia di Vicenza, Giancarlo da Mantova e Marco dalla provincia di Macerata. Facciamo una... Laura Vanossi, vedo che è contenta che ho raccolto tutti gli ascoltatori. Una batteria di domande. Leonardo, buongiorno, tocca a lei. Buongiorno, buongiorno. Volevo riportare il mio caso. Allora, da circa 4-5 anni soffro di problemi al piede. L'ortopedico mi spiegava che la mia arcata plantare non regge il mio peso, per cui è iperestesa. 5 anni fa mi suggerì di mettere il plantare, io ho messo dei plantari specifici e effettivamente mi ha dato il sollievo, però da circa un anno e mezzo la cosa non mi basta più, mi è tornato male al piede. Mi trovo abbastanza bene con scarpe con il tacco alto, quindi scarpe da ginnastica. Ah no, pensavo Leonardo, pensavo la scarpa proprio quella 12. No. Su quella scarpe non da uomo, scarpe da uomo con un bel tallone, però sento che non mi basta più. Io sono un amante delle passeggiate, delle corse, non riesco più ad andare a correre, non riesco più a fare anche solo 10 km, non riesco più a farle, e le passeggiate vanno comunque contenute perché mi fa male il piede, soprattutto nella parte centrale e leggermente posteriore del piede. Grazie, ecco. Grazie Leonardo. Possiamo passare a Giancarlo da Mantova, vediamo che cosa ci racconta. Giancarlo? Buongiorno. Buongiorno a lei, benvenuto. Allora, grazie. Io volevo chiedere una cosa. Quelle scarpe che sono molto moderne, io dico moderne, a mezza luna sotto, no? Per la camminata assistita, può essere utile per mal di schiena o solo una moda per prendere le scarpe? Ecco. Grazie a Giancarlo. Marco, scendiamo nella provincia di Macerata. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno. Io è da circa un anno che ho delle fitte enormi su un piede, il piede sinistro, diciamo nella parte dell'alluce esattamente, ma questo non è continuativo, cioè a volte ci stanno delle fitte che ti fanno fermare, a volte non senti assolutamente dolore. E ho notato che c'è un grande arrossamento laterale, diciamo, nella parte dell'alluce. Non so se può essere dovuto a scarpa stretta o altre patologie che vengono attraverso anche la corsa, perché anche a me piace correre però vede. È un periodo che sono anche impedito in certe circostanze di correre. Quindi volevo capire anche che se cosa possibile. Si può fare. Grazie a Marco che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Fatelo anche voi. Dottor Melegatti, tre stimoli diversi, certo. Da cui trarre delle informazioni, delle raccomandazioni per occuparci dei nostri piedi e per prevenire, perché se abbiamo male i piedi, lo sappiamo, andiamo poco lontano. Si vive male, ecco. Certo. Allora, direi... Batte proprio in testa, tra l'altro. Per il primo ascoltatore, da quello che ho sentito, vale la pena di fare una revisione, di rivedere bene alcuni aspetti della questione. Non ci dobbiamo limitare solamente a focalizzare la nostra attenzione sul piede. In questo caso bisogna valutare se è successo qualcosa dopo questi 4 anni, cioè 4 anni durante i quali l'ascoltatore ha trovato un buon equilibrio con una soletta, con un'attività fisica. Qualche cosa è successo, questo equilibrio si è interrotto, e allora si è interrotto probabilmente per cause anche che esulano proprio dal problema del piede. Magari ha cambiato il modo di allenarsi, oppure si è mosso meno, ha preso peso. Allora vale la pena di rivedere l'appoggio plantare, quindi con una anche valutazione un po' sofisticata, una valutazione che noi chiamiamo baropodometrica, che ci permette proprio di valutare la forma dell'appoggio del piede e la distribuzione dei carichi a livello del piede. Mi scusi, quindi un consiglio a chi porta i plantari è ogni tanto ricontrollateli? Sì, ogni tanto ricontrollateli, perché i plantari non sono eterni. Non sono eterni. Naturalmente si consumano e si abbassano e quindi perdono la loro funzione di ammortizzazione. Quindi rivedere per questo ascoltatore il plantare, ma anche in generale la situazione, con una valutazione globale del suo organismo e della sua postura. Per il secondo ascoltatore. Le scarpe sono di moda, si chiamano MBT, sono scarpe che hanno un po' mutuato la forma delle scarpe dei Masai. Sì. C'è parecchia aneddotica in queste scarpe, non c'è una evidenza scientifica che possano essere efficaci per trattare il mal di schiena, però... certo è che possono essere utili magari proprio per patologie del piede, proprio perché riescono a togliere peso alla parte anteriore o alla parte posteriore del piede, quindi determinate situazioni, metatarsalgie e talloniti, possono essere utili. È un po' il problema anche di Marco, non delle scarpe ma di questi dolori ai piedi che limitano anche la possibilità di andare a correre. Certamente. Quindi di Marco ha parlato in maniera specifica di un dolore all'alluce, quindi bisogna valutare bene intanto com'è la situazione dell'alluce e quindi dell'articolazione tra alluce e metatarso, e vedere se c'è un problema degenerativo artrosico, capire com'è l'appoggio plantare e decidere se vale la pena di fare delle terapie o utilizzare un plantare. Quindi rimaniamo con i piedi per terra, 800 24 00 24, a volte abbiamo la sensazione che siano ben appoggiati, ma la terra sotto sembra che ci manchi. Adesso mandano tipi dall'area mansueta, dai Minderleni, in modo che tutto sembri innocuo, senza intenzione, innocente. Ma io non ci casco, lo sapete questo? No, non ci casco. È come in discesa, precipita tutto in avanti. Mi è già successo l'altra volta, si è come tutto inclinato. Mi pare. Vuole intendere che tutto è dissestato sotto sopra? Ah, questo sì. No, non in senso metaforico, proprio fisicamente. Non ha anche lei la sensazione di cadere? Francamente no, ma forse è meglio che sia. Il mondo gira intorno a noi o siamo noi che giriamo intorno al mondo? Buongiorno, professor Giorgio Guidetti. Buongiorno. Responsabile del servizio di audiovestibologia e rieducazione vestibolare all'ospedale Ramazzini di Carpi. Professor Guidetti, sembra uno scioglilingua, ma la domanda è assolutamente pertinente. Ci aiuta a capire di più di questa sensazione di instabilità, in modo non corretto la chiamo vertigine, che molti di noi a volte avvertono all'improvviso. Eh sì, purtroppo è vero, è una patologia, un sintomo anzi molto molto diffuso, che può dipendere da tantissime malattie. Ora, o anche da nulla, vero professore? O anche da nulla, o anche semplicemente da un'emozione. Sì, ecco, da un incontro. Esatto. Va bene, professore, allora ci racconti. Allora, diciamo, se è un sintomo isolato, di breve durata, ed è non accompagnato da altri sintomi, non è preoccupante proprio per nulla, e può essere appunto quello che dicevamo prima, da un attimo di emotività, un piccolo sbalzo di pressione, una sciocchezza. Se invece è accompagnato dalla sensazione che il mondo intorno ruoti tipo centrifuga, il problema è un po' più serio e probabilmente c'è di mezzo l'orecchio. Se è accompagnato da una sensazione, per esempio, di avere i piedi, diciamo, poco sensibili, tanto che camminando ci viene voglia di battere i piedi per terra per avere una percezione maggiore di sensibilità, probabilmente è legato a qualche fenomeno che colpisce spesso i soggetti o anziani o diabetici, come una polineuropatia sensitivo motoria. Se è una cosa che dura molto ed è caratterizzata come di un unico sintomo, caratterizzata appunto da questa cronicità, conviene che il neurologo vada a fare una valutazione più attenta delle problematiche cerebrali in grado di provocarla, però è una percentuale molto bassa, diciamo, di questo tipo di patologia. Professor Guidetti, ma molti di noi quando gira la testa o sentiamo la terra che manca sotto i piedi, pensiamo subito magari a un calo pressorio. Eh sì, viene da pensare o un calo pressorio, oppure c'è la leggenda metropolitana che possa essere l'artrosi cervicale. Se è un fatto isolato, il calo pressorio ci può stare, però ecco, poi bisogna controllare un attimo la situazione, diciamo, della pressione, per qualche giorno controllarsi, guardare come va. La cosa importante è che non ci siano altri sintomi importanti, significativi, come appunto le centrifughe del mondo intorno, oppure dei formicoli, delle parestesie, delle sensazioni di mancanza di forza. Ecco, se ci sono questi sintomi, la nausea forte, ecco, se ci sono questi segni, meglio non sottovalutare il problema. Professore, e se la terra ci manca sotto i piedi, ci sediamo, non facciamoci prendere dal panico, possiamo sederci e aspettare che passi? Ah certo, eh? Ah certo, sì sì, la cosa migliore da fare è non spaventarsi, sennò si sta peggio. Poi ci si ragiona un attimo a freddo e si dice, tutto qua? Bene, se tutto qua non mi allora, preoccupo. Allora, grazie professor Guidetti per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie anche a voi, arrivederci. 800 24 00 24, professor dottor Melegatti, il nostro piede, abbiamo detto, viene stressato da un'attività sportiva non adeguata. Sono le scarpe? Fanno più le scarpe, oppure un movimento non adeguato, un allenamento troppo stressante? Direi entrambe le cose. Direi che le scarpe giocano un ruolo fondamentale, soprattutto per attività come quelle della corsa, ma non solo, anche per attività come calcio, basket, qualsiasi disciplina che preveda carichi, cambi di direzione, salti, atterraggi. Quindi le scarpe sono fondamentali proprio perché devono adattarsi alla struttura del piede e quindi devono... ciascun individuo ha bisogno di una scarpa particolare e quindi le scarpe, soprattutto per persone che fanno sport ad alto livello o continuativo, per esempio persone che corrono 3-4 volte alla settimana, devono trovare delle scarpe adatte che devono essere leggere ma che devono anche rispettare la fisiologia del piede di chi corre. E poi naturalmente il sovraccarico, come diceva giustamente lei, bisogna organizzare bene l'allenamento e evitare di andare incontro a allenamenti eccessivi in termini di durata dell'allenamento o di terreni scelti. E poi ricordatevi che i piedi ci portano in giro e si sobbarcano anche i nostri chili, spesso se sono tanti. Loro non dicono nulla, però alla fine... Essere e benessere. Cadere in piedi. Ragionamento che non sta in piedi. Puntare i piedi. Mettere un piede davanti all'altro. Andare con i piedi di piombo. Pestare i piedi. Avere le ali ai piedi. Una cosa fatta con i piedi. Tenere il piede in due scarpe. Darsi la zappa sui piedi. Su due piedi. Prendere piede. Mettere i piedi in testa a qualcuno. Avere un piede nella fossa. Uscire con i piedi in avanti. Tenere i piedi per terra. Tenere i piedi per terra è un modo per dire, insomma, cerca di essere concreto. Bene, questo messaggio è sposato anche dalla medicina cinese. In linea con noi, finalmente, è tornato a trovarci il dottor Maurizio Corradin. Buongiorno, dottore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma finalmente è tornato. Sì, dopo fatto un po' di vacanze. Lo so, sappiamo tutto di lei, ma vogliamo sapere tutto anche di come la medicina cinese legge il piede e considera il piede proprio come un elemento indispensabile per dare concretezza appunto ai famosi piedi appoggiati per terra. Assolutamente sì. Allora, il piede ovviamente tante cose, come sempre in medicina cinese ha una valenza fisica e una valenza psicologica. Sì, questo allora, mi piace. Il primo punto è proprio questo della concretezza. L'unico punto sul piede che troviamo sulla pianta del piede è un punto del meridiano del rene, che è il punto della concretezza, della capacità di essere concreti. Accanto a questo, accanto alla concretezza, il piede è proprio il sistema di sostegno, la nostra armatura, la capacità di reggere tutte le 10.000 difficoltà che incontriamo nel corso della vita. Accanto a questo, il piede è la nostra capacità di avere una direzione nella vita. C'è un punto in modo particolare che si chiama barriera della luce ed è l'unico punto che porta luce nel nome principale, che indica la nostra capacità di prendere la nostra direzione. Ma dov'è questo? Dov'è? Io sono molto interessata. Si trova a 5 dita sopra il malleolo esterno, quindi all'origine del piede, ed è la nostra capacità di prendere una direzione nella vita indipendentemente da quello che gli altri vogliono e di prenderla con molta concretezza, proprio il nostro cammino lungo la vita. E questo è inserito nel discorso globale che tu facevi prima, cioè quello della concretezza. Se la mano è la fantasia, se la mano è la parte yang del corpo, il piede invece è la parte yin, la nostra concretezza. E dal piede nascono le sei grandi linee energetiche, ciascuno delle quali in funzione delle dita ha il suo significato preciso. Io vorrei chiedere al dottor Melegatti, che vedo che la sta ascoltando con grande attenzione. È molto interesse, sì. Ecco, che traduzione potrebbe dare della lettura della medicina cinese lei che è un medico della medicina occidentale? Ma la prima analogia che mi viene in mente è che la medicina cinese tiene in grandissima considerazione il piede, così come la mano. Così come del resto facciamo noi, perché noi siamo abituati adesso a considerare il piede come un organo, più che un organo meccanico di trasporto o di adattamento al suono, come un organo sensoriale, come un organo di senso. vorrei stressare molto il concetto della capacità del piede di mandare delle informazioni al nostro cervello su quello che tutto l'organismo sta facendo. Il cervello ritorna con dei messaggi che arrivano a tutti i muscoli del corpo e al piede per trovare la situazione ideale, l'adattamento ideale. Questo apre le porte veramente a una chiave di lettura straordinariamente interessante e molto complessa. E poi il nostro piede è proprio una pompa anche, no? Attiva tutta la circolazione, manda in base anche a come noi appoggiamo i piedi. Ma dottor Corradin, lei mi ha anticipato anche qualcosa sulle dita. Ah, certamente, poi nel il piede, dal piede partono sei linee energetiche, ciascuno in rapporto a sei linee energetiche, ciascuno in rapporto alle dita del piede, e ciascun dito quindi ha significati diversi. Per esempio l'alluce, cioè il primo dito, è in rapporto con il meridiano della leggerezza e con il meridiano della riflessione. Leggerezza significa leggerezza nella vita, la capacità di riflettere per avere una vita leggera. È come quando riusciamo a guardarci da 10.000 metri d'altezza, vediamo questa formichina che corre come una matta, e allora dici fermati un attimo. Cioè la capacità di riflettere per avere una buona vita e una vita leggera, e questo è in rapporto fondamentalmente all'alluce. Ma per chi invece ha l'alluce valgo? Vuol dire che la leggerezza si è un po' appesantita, è un pochino alterata questa vita, questa vita molto spesso purtroppo non è leggera e non è affrontata con la dovuta leggerezza. Quindi cerchiamo di evitare la luce valgo, perché sennò la nostra leggerezza nella riflessione va in tilt, si frantuma. Andiamo al secondo dito. Il secondo e il terzo dito sono le due dita che sono in rapporto alla capacità di mettere la luce dentro di noi. Gli antichi cinesi parlavano dello Shenming, cioè della capacità di non osservare semplicemente la superficie delle cose, ma di mettere luce nella nostra profondità. Per dirti, nei sogni compare la capacità di illuminare le zone buie della cantina, cioè la capacità di illuminare le zone buie della nostra vita. E questa è in rapporto a una linea energetica legato al secondo e al terzo dito. Dottor Corradin, volevo chiedere al dottor Melegatti, tanto che facciamo questa lettura della medicina cinese, io vorrei trasportarla anche in una lettura della medicina occidentale. Spesso il secondo e terzo dito cambiano forma, dottor Melegatti, e si incurvano. Certo, sì, questo dipende un po' anche dalla situazione, un po' dell'appoggio plantare e di quello che fa il primo dito. Adesso non so se anche nella medicina cinese si può trovare una correlazione tra il comportamento del primo dito e il comportamento del secondo e del terzo. Sta di fatto che il secondo dito risente dalla deviazione in valgo del primo dito. E forse sì, perché dottor Corradin, chi non ha una leggerezza nella riflessione non riesce forse a far passare la luce. Assolutamente. Vedi, sì, cioè il tutto legame collegato, è la luce governa. E arriviamo al quarto e al quinto, sono separati o insieme? Sono separati. Il quarto dito è il dito della nostra capacità di scegliere se andare a sinistra o a destra nella nostra vita, la capacità di dire sì e di dire di no. Quindi la capacità di operare delle scelte che ci indirizzino nelle scelte appunto fondamentali della nostra vita. Per dirti, c'è un punto che si trova proprio molto vicino al quarto dito, che si chiama questo punto si chiama raddrizzatore di torti, e che nella sua sintomatologia psichica c'è scritto: rimanda tutte le decisioni più tardi, quando avrà coraggio. E il quarto dito è il dito del coraggio, delle scelte e del coraggio. E vede com'è piccolo il quarto dito? Il coraggio a volte manca. Arriviamo al quinto? Il quinto dito è il dito della regola del corpo, dove dalla regola che va dalla regola posturale, quindi sul piano fisico, dove partono le catene muscolari che poi controllano tutta la muscolatura posteriore del corpo e che danno una regola al corpo, ma più in generale è il dito delle regole di vita. regole di vita significa regole molto semplici, da quelle più semplici, cioè il fatto di mangiare ad orari, di fumare poco, insomma le regole sul piano fisico, ma ancora di più le regole sul piano psicologico, fino ad arrivare alla regola sul funzionamento degli organi e dei visceri, che secondo la tradizione della medicina cinese classica devono funzionare secondo gli ordini del cielo. Dottor Corradin, grazie per essere stato con noi. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti sul nostro piede, quindi non è solamente un modo per stare in piedi, ma racconta tante cose di noi. Grazie al dottor Corradin, a presto. Arrivederci. E noi abbiamo tempo di dare la linea a Mario, che ci chiama da Catanzaro. Buongiorno Mario. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Auguri per la trasmissione. Grazie, speriamo. Prego. Volevo fare una domanda al dottore Melegazzi. Sì. Si tratta di questo. Io ho 69 anni. Durante la notte, certe volte, la parte cava del piede mi si blocca, come dire, un cramp. A che cosa è dovuto questa tipologia di... piuttosto spesso. Ecco, grande capitolo, dottor Melegatti, sui crampi. Potremmo dire, dimmi che crampo hai e ti dirò chi sei, perché ci sono crampi che possono insorgere in diverse occasioni, la notte, ma anche di giorno, se facciamo attività sportiva, durante, dopo, ma anche se stiamo assolutamente seduti tranquilli alla nostra scrivania. Che cosa bisogna fare e che cosa dicono i crampi? Soprattutto come evitarli? Intanto bisogna capire se effettivamente il signor Mario è affetto da un vero e proprio crampo, vale a dire da una contrattura della muscolatura intrinseca del piede, ed è probabilmente così, nel senso che il crampo può essere legato o a una eccessiva sollecitazione, magari il signor Mario sta parecchio tempo in piedi fermo, oppure è sovrappeso, oppure beve poco, oppure ha dei problemi circolatori per i quali c'è un po' di ristagno venoso. Quindi bisogna veramente inquadrare la situazione, considerando che comunque bere un po' più di quanto beviamo di solito, per esempio, è una buona cosa. E in pratica è quello che il signor Mario può fare dei semplici esercizi di allungamento. Basta afferrarsi le punte dei piedi, delle dita, e tirare verso di sé per creare una sorta di allungamento della fascia plantare. Questo da ripetere più volte al giorno. Tiriamo quelle dita che abbiamo visto, ci portano la luce dentro, certo. Secondo la medicina, la leggerezza della riflessione. Non strapassiamole, non però, troppo, perché se smettono di fare il loro dovere, ahimè. Essere e benessere. E noi siamo tornati, noi con i nostri piedi, e in linea con noi abbiamo, penso, anche i piedi di Laura, che ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Laura. Salve Nicoletta, buongiorno. Buongiorno. Tanti spunti di riflessione in questa trasmissione. Tra l'altro, facendo Tai Chi, la nostra insegnante ci raccomanda sempre l'attenzione sulle radici, cioè di non muovere mai troppo, di alzare troppo i piedi, perché noi proprio con la pianta del piede manteniamo proprio le nostre radici, e sono quelle che non ci fanno perdere l'equilibrio, certo, sia nell'attività di Tai Chi che nella, tra virgolette, nella vita. E certo, e lei si trova bene a fare Tai Chi? Molto, perché è un'attività praticamente al contrario di quelle che faccio di solito, molto attive. Sì. Questa è un'attività che invece mi aiuta proprio a entrare un pochino all'interno e a gestire un po' le energie che spesso io esplodo in modi molto eclatanti. Quindi nelle cerca mie manifestazioni. Brava Laura. E allora? Niente, per quanto riguarda i piedi, ecco, la domanda era questa. Facendo varie attività, alcune sportive, alcune diciamo frequenti, tipo la palestra piuttosto che la pallavolo, sì, qualche volta lo sci, qualche volta d'estate noi giochiamo a softball. Insomma, Laura, lei non sta mai ferma. È un po' la mia prerogativa, però. Che è successo allora ai suoi piedi? Che cosa è successo? Ecco, la difficoltà di trovare diciamo le scarpe giuste per le varie attività. ovviamente essendo diversi vanno diversificate. Quindi mega scarpiere per Laura, dottor Melegatti. C'è un particolare, che ultimamente ho notato due macchioline sulla, sull'alluce, appunto nella parte esterna delle unghie. E una, la prima volta mi è uscito, ho detto ma avrò picchiato. Sì, e invece tutte sono due rimaste. Allora, dottor Melegatti, possiamo guardare il nostro piede per capire che cosa ha bisogno e soprattutto per evitare di stressarlo inutilmente? Certo, allora direi che non è il caso di pensare di ridurre l'attività sportiva, perché se uno si sente di fare ed è in grado ed è allenato, può tranquillamente fare più discipline sportive. Quello che raccomando è di trovare una scarpa adatta per ciascuna delle attività sportive che intraprende. Quindi non accontentarsi di una scarpa generica, valutare la forma del piede, soprattutto la forma, l'appoggio del proprio piede, e in base a quello scegliere, farsi consigliare da una persona esperta per scegliere la scarpa adatta. Un piede cavo avrà bisogno di una scarpa particolare, una scarpa con una soletta che sostiene la volta plantare, avrà bisogno di una scarpa che ammortizzi l'appoggio, così come un piede piatto avrà bisogno di una scarpa che tenga conto proprio del fatto che c'è un appiattimento della volta e quindi la persona ha bisogno di sostegno. Bisogna valutare anche in base a quanto chilometri una persona fa e quindi scegliere la scarpa adatta sulla base di un buon consiglio di una persona esperta. Andiamo a Diego, che ci chiama da Reggio Calabria. Diego, buongiorno. Buongiorno, senta, io faccio una premessa, faccio molto sport anche nel lavoro che faccio, diciamo, prendo molti pesi, diciamo. Oltretutto ho una massa muscolare abbastanza imponente, quindi sono alto 1,65 e peso 80 kg, però sono asciutto. Per tutta lei dice che sono tutti muscoli, Diego? Sì, però questo discorso, diciamo, sui piedi, credo che mi sia venuta una fascite plantare. Io ho continuato sia a lavorare che... Però le dà fastidio, Diego? No. No, non è il discorso, è che ho continuato, prendevo antinfiammatori, ho continuato a allenarmi e poi durante un allenamento ho sentito un forte rumore alla fascia plantare, diciamo, e da allora, diciamo, non riesco più a camminare bene. Certo. E vorrei capire se era il caso, diciamo, di fare una risonanza magnetica. Ho fatto diciamo, le lastre, però non ho niente. Grazie, Diego, ci ha dato le informazioni utili per affrontare anche questo problema della fascite plantare. Infatti gli esperti raccomandano un riposo. Invece Diego ha tirato, certo, e poi ha sentito crack. Come si previene e come si affronta? Certo, adesso che il problema è arrivato bisogna innanzitutto occuparsi del problema e quindi bisogna far passare la fase acuta, se c'è ancora la fase acuta, e quindi osservare il giusto riposo e affrontare un periodo di terapie fisiche, quindi che ci permetta di allungare la fascia plantare e di dare il tempo proprio al processo riparativo di completarsi. Certo. E poi bisogna capire perché è arrivata la rottura della fascia plantare. Probabilmente c'è una predisposizione legata a un piede cavo, magari, e quindi un piede che ha bisogno di una soletta plantare particolare, e quindi di un piede che ha bisogno di gestire meglio il carico, l'allenamento, perché mi dice Diego che oltre ad avere una massa muscolare imponente e a fare molto sport, sta in piedi molte ore anche durante la giornata e movimenta carichi, movimenta pesi, e quindi bisogna organizzare bene per evitare che possa risuccedere una scarpa adatta con una soletta plantare adatta al suo piede. Queste sono delle regole per prevenire la fascite anche, quindi certo, scarpe adatte. Certamente, scarpe adatte e mantenere la fascia plantare flessibile, ma non solo la fascia plantare, ma tutta la muscolatura della gamba. Beh, ci sono degli esercizi che ci aiutano a mantenere flessibile questa parte, ad esempio camminare sulle punte o camminare sui talloni, oppure fare degli esercizi con la pallina. Certo, sono tutti esercizi molto semplici che sono utili. Vede che alla fine ho imparato. Tra l'altro, io sono alcuni ascoltatori mi scrivono, tra cui Mario, mi scrivono come fare a riascoltare la puntata di oggi e come sempre io vi invito e vi dico scaricateci, nel senso che potete andare sul nostro sito e scaricare la puntata. Tra l'altro questo mi fa molto piacere perché così segno che la cosa vi piace. Repetita Juvent dicono, e quindi riascoltatevi, è molto facile, e potete anche mettervi in contatto con noi sulla nostra pagina Facebook. E io direi chiudiamo rapidissimamente con Silvia che ci chiama dalla provincia di Latina. Silvia, chiudiamo in bellezza. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. In bellezza non tanto, perché posso dire che ho dei brutti piedi, insomma, ho la lucevalgo e ho le dita a martello, quindi tendo a non mettere mai scarpe aperte e il problema è abbastanza sotto controllo perché di solito uso scarpe basse e con pianta larga. Sì. La domanda è questa, volevo sapere quando era indicata l'operazione alla lucevalgo. Tenga presente che ho una mamma con la lucevalgo e così la nonna e così la zia. Sì, insomma quasi un marchio di fabbrica. Sì. E ho, tanto per non comunque cambiare quella che è la tradizione, una ragazzina di 12-13 anni quasi, che ha comunque una lucevalgo. Che magari ce l'aveva pure Cenerentola, adesso perché non ci hanno detto nulla del piede. Dottor Melegatti, si può operare sicuramente? Sì, naturalmente sì, e la decisione all'intervento è presa dal paziente stesso, vale a dire quando la situazione non è più tollerabile, vale a dire quando la deambulazione diventa faticosa e quando il dolore è costante. Eliminate la cipolla. Esattamente, bisogna fare l'intervento. Come si chiama? Noi dobbiamo salutarci, dobbiamo andare via, ma io domani torno sempre alle 11 dopo il GR. Grazie al dottor Melegatti per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. A Roberto Scaltritti in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Voilà, noi torniamo domani.